La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 21 febbraio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Per i contatti 33 180 94 94 e cacciafotone at radiocittafugico.it. E beh, quest'oggi tratteremo un argomento abbastanza complesso. Cercheremo di indagare il perché la scienza sia tanto osteggiata nel nostro paese. E soprattutto questo a quali conseguenze porti. E lo faremo insieme al professor Enrico Bellone, direttore della prestigiosa rivista Le Scienze. Buongiorno professor Bellone. Buongiorno a lei. Professor Bellone, all'inizio cominciamo con le 100 parole iniziali per introdurre l'argomento, quindi io citando un suo libro le chiedo, perché la scienza è negata? Sostanzialmente è negata nel nostro paese perché è considerata non cultura, ma solo una forma della tecnica. E la tecnica nel nostro paese genera molte paure, molti timori. E vede, il fatto è che varie componenti culturali nel nostro paese confluiscono con motivazioni tra loro diverse a inculcare questa negazione della libertà della ricerca, con conseguenze disastrose per l'economia e per il benessere dei cittadini. Professor Bellone, di questo ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso metto un piccolo pezzo musicale, restiamo in studio e poi cominciamo davvero con la trasmissione. Siete sempre all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Quest'oggi si parla di scienza negata. 300 tra ricercatori, studenti e detenuti testano una nuova macchina della verità. Un universo insolito, esotico, misterioso. Sono radiotelescopi, occhi speciali per scrutare il firmamento. Un fisico se ne stava comodamente seduto sotto un albero di mele. Professor Bellone, con lei volevo cominciare dal 1894, addirittura, quando il ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli affermò che è saggio ridurre le spese all'università italiana con l'unico scopo di stimolarne la creatività. Ora, se non sapessi che questa affermazione è stata fatta nel 1894, penserei che questa affermazione è stata fatta nel 2009. Allora la prima domanda è: come mai queste affermazioni sono ancora valide, purtroppo? Perché le principali componenti culturali della nostra società da circa 100 anni confluiscono con motivazioni tra loro completamente diverse a negare il valore che la scienza può avere nella società contemporanea. Ci sono componenti politicamente tra loro molto diverse. Pensi, non so, la cultura laica di Benedetto Croce nella prima metà del Novecento, che era decisamente contro la ricerca libera, dicendo che la scienza produce ricette da cucina, in sostanza. E nell'altro senso, sempre Croce, un attacco che gli fece fortissimo contro il darwinismo. Ma non c'era solo lui, c'era una parte ultraconservatrice, per esempio Evola, che scriveva che la scienza è una morta cognizione di cose morte, ma nello stesso tempo può essere un'arma in mano agli operai e ai contadini, quindi doveva essere messa a tacere. Poi la Chiesa cattolica, che brillava per il suo antimodernismo, e anche, diciamo, una certa sinistra che aveva tratto ispirazione da alcuni filosofi come Marcuse, Adorno, Horkheimer, il 68, con un attacco frontale sia contro l'illuminismo sia contro la scienza, che era vista come la serva del capitale, della borghesia. Quindi, professor Bellone, non è qualcosa di molto recente questa avversione italiana per la scienza, ma è qualcosa che fa riferimento a un passato molto lontano? Beh sì, tra l'altro oggi si ripetono ancora sotto forma di slogan delle considerazioni che risalgono alla prima metà del Novecento, in sostanza, e poi agli anni del 68. Questo confluisce, come era stato ricordato molti anni fa da Ruberti, che era stato rettore a Roma, ministro. Secondo Ruberti si era formata in Italia una opinione pubblica con un ampio consenso, secondo la quale la scienza non è una forma della cultura, e la classe politica rifletteva in sé questo convincimento e continua a rifletterlo in sé. Per cui cosa succede? Che le spese per la ricerca sono viste come spese, non come investimenti per il futuro. Quindi quando ci sono problemi di natura economica si taglia, mentre in altri paesi si fanno investimenti enormi. Pensi alla Francia, che attraverso una crisi economica anch'essa, ma hanno investito 10 miliardi di euro per potenziare un gruppo ristretto di università, tutte centrate sulla ricerca scientifica, per non parlare della Germania, dell'Inghilterra, della Spagna. La situazione italiana nei confronti di questi paesi, a livello di finanziamenti, a livello di ricerca, qual è? Come possiamo classificarci nella classifica degli investimenti per la ricerca? Ma questa è una bella domanda, nel senso che noi investiamo pochissimo, sia dal punto di vista finanziario, sia come investimento sulle risorse umane. Un giovane italiano che adesso faccia il dottorato, che so, in astrofisica o in biologia molecolare, percepisce 1.000 euro al mese. Il che spiega come mai i nostri migliori se ne vadano, perché negli altri paesi più moderni di noi non solo c'è il rispetto per chi fa ricerca, ma c'è anche un trattamento economico consono perlomeno al lavoro che queste persone fanno. E si potrebbe proprio vedere dal fatto che noi importiamo pochissimo ed esportiamo moltissimo come cervelli. Ah beh, certo, non è che viene a fare ricercatore in Italia, ci sono, ma sono casi rari. E vede, tutto è nato circa 100 anni fa, quando le grandi potenze europee cominciarono ad entrare in quella che oggi si chiama la società della conoscenza, che si basa proprio sulla produzione del sapere scientifico, avendo due punti di mira: la ricchezza della nazione e il benessere dei cittadini. Pensi com'era la Spagna 20 anni fa, pensi com'è adesso. Quindi si possono fare investimenti economici sulla scienza e produrre risultati positivi. Se non li facciamo, restiamo un paese un po' alla deriva, come in effetti sta accadendo. Professor Bellone, prima di mettere un pezzo musicale, le voglio fare un'ultima domanda nel primo blocco della trasmissione. Il fatto che la scienza sia fondamentalmente intuitiva, cioè il fatto per esempio che non sia l'intuizione che il Sole sia fermo, ma a noi sembra che la Terra sia ferma, oppure il principio di indeterminazione di Heisenberg che dice che al di sotto di un certo valore non si può definire la posizione per esempio di un elettrone, questo rende la scienza lontana dal sentir comune. Ma questo è una caratteristica tipica della ricerca fondamentale, ma è sempre stato così, anche nel 600 c'era questo allontanamento dall'intuizione. Ora la questione è che questo allontanamento viene percepito come una patologia nei paesi come il nostro, che le inchieste internazionali che si fanno ormai da più di 30 anni collocano questo nostro paese ai livelli di analfabetismo scientifico di massa. Quindi è molto facile propagandare temi sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista laico, temi contrari al cosiddetto dominio della tecnica, e questo è veramente un dramma, perché sono molto poche le voci che si levano contro questa tendenza. Naturalmente ciascuno è libero di pensarla come vuole, ma quando un filosofo laico si chiede se è conciliabile addirittura la scienza con la democrazia, o quando un pontefice paragona la genetica ai crimini di Pol Pot, nel paese si genera uno stato di ansia, anche perché nelle nostre scuole i programmi che dovrebbero aiutare i giovani a capire meglio quello che lei diceva, cioè il carattere controintuitivo della ricerca scientifica, le nostre scuole, a parte qualche lodevole eccezione, non sono in grado di assolvere questo compito, non ci riescono. Perché? Perché le forze politiche non hanno mai fatto una riforma del sistema educativo nazionale degna di questo nome. Professor Bellone, noi ci lasciamo con un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e continuiamo con questa interessante discussione. Bentornati a Caccia al Fotone. E abbiamo sempre al telefono il professor Enrico Bellone, direttore della prestigiosa rivista Le Scienze. Professor Bellone, la prima domanda di questo nuovo blocco della trasmissione è questa. Su scidev.net è uscito da pochissimi giorni un articolo intitolato Scientist Wake Up and Communicate, e questo mi porta a introdurre l'argomento del fatto che normalmente per parlare di scienza i modelli comunicativi prevedono un comunicatore, cioè un tramite fra la ricerca e il pubblico. Ora, cosa succederebbe se direttamente gli scienziati entrassero a fare divulgazione e cominciassero a parlare di scienza senza bisogno di intermediari? Dunque, innanzitutto lei mi deve permettere una piccolissima precisazione. Io ho diretto Le Scienze per 13 anni, ma proprio in questi giorni ho lasciato la direzione a una persona che, beato lui, ha 20 anni meno di me, che è bravissima. Ma proprio la storia della rivista è interessante rispetto alla domanda che lei mi ha fatto. Questa rivista fu fondata nel 1968 da Felice Ippolito. Felice Ippolito, che ho conosciuto benissimo, che ho sempre ammirato per il suo coraggio, quando decise di fare l'edizione italiana di Scientific American, fu sconsigliato da tutti, gli dissero: questa rivista non venderà mai neanche una copia. E invece fu subito un successo editoriale. Perché? Perché gli scienziati che collaboravano e continuano a collaborare a questa edizione italiana sono in parte scienziati italiani che dedicano molto del loro tempo a una divulgazione alta. Quindi gli scienziati fanno già divulgazione senza servirsi di comunicatori intermedi. E devo dire che in Italia c'è moltissime persone che hanno fatto grandi ricerche e che ora ritengono fondamentale appunto questa forma di comunicazione fatta senza intermediari, cioè la fanno direttamente loro. Questa è una cosa secondo me molto positiva, perché prima ho dato un quadro un po' pessimistico della situazione, ma teniamo conto anche del lato positivo, cioè in questo nostro paese, pensi a quello che succede nei festival della scienza, decine e decine di migliaia di persone vanno a sentire conferenze su tematiche molto avanzate, tenute da scienziati che si offrono come intermediari da questa forma alta della cultura, che è la scienza moderna e contemporanea, e la popolazione. Quindi l'Italia è in bilico tra queste due tendenze: da una parte la paura della tecnica e della scienza, e dall'altra invece una forma di curiosità che si sta allargando anno per anno, e lo si vede anche da come si vendono certi libri, per esempio. Professor Bellone, un'altra domanda che le voglio fare, visto che stiamo parlando anche di comunicazione della scienza, perché anche quello è molto importante. Nel corso degli ultimi anni sono cambiati un po' i modelli comunicativi. All'inizio si pensava che col public understanding of science fosse la scienza che scendeva direttamente dalla Torre d'Avorio, mentre col PEST, col public engagement in science and technology, cambia un po' tutto, cioè gli scienziati sono protagonisti, il pubblico è protagonista. Eppure, nonostante questo, in Italia questo non ha portato a un'attribuzione della cultura scientifica nel cuore delle persone. In che cosa abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato? Ma abbiamo sbagliato nel senso che non abbiamo valutato bene i vantaggi di fare investimenti finanziari e in risorse umane nella libera ricerca, e attento, non nello sviluppo tecnologico, proprio nella libera ricerca. E abbiamo sbagliato perché non abbiamo capito quello che stava accadendo nel resto del mondo, dove cioè nazioni non solo europee da decenni si preoccupano di riorganizzare il proprio apparato conoscitivo nazionale spendendo denaro e trattando bene le persone che poi fanno il ricercatore, lo scienziato. E questo è un errore di natura politica. Ed è un errore di natura politica di cui stiamo pagando prezzi sempre più alti, perché se lei pensa che in certi paesi del nord Europa il numero dei ricercatori ogni 1000 abitanti è il quadruplo di quello che abbiamo in Italia, lei si rende immediatamente conto che è quasi impossibile competere anche a livello industriale con quei paesi, perché producono innovazione in continuazione. E noi no, e quindi abbiamo questo grosso handicap che tra l'altro, guardi, agli inizi degli anni 70 questa situazione italiana era venuta già fuori con chiarezza da un'indagine internazionale nella quale si faceva notare come l'Italia fosse un paese molto arretrato da questo punto di vista, e ci fu un convegno di cui furono pubblicati gli atti e che io cito nel libro che lei ha ricordato, La scienza negata. In quel convegno c'erano uomini politici di parte democristiana e di parte comunista, tra l'altro c'era l'attuale Presidente della Repubblica, e se lei legge le relazioni democristiane e comuniste si rende conto che quelle poche persone avevano perfettamente capito quello che stava accadendo, cioè entrambi dicevano le responsabilità sono trasversali, non sono solo del governo o solo dell'opposizione, sono trasversali. Non abbiamo capito cosa sta accadendo sul pianeta, e se non ci riusciamo nel giro di 30 anni a invertire la marcia, a rischio sarà la produzione industriale e quindi a rischio sarà la stessa democrazia. Solo che quei messaggi rimasero in minoranza, purtroppo, perché la maggioranza dei protagonisti della politica ritenne che fosse più opportuno investire denaro in altre cose e lasciarono gli investimenti per la ricerca scientifica stabili, semplicemente, mentre negli altri paesi crescevano. Tenga conto che quel convegno e quell'indagine internazionale avvennero pochi anni dopo fatti gravissimi che accadono in Italia. Sotto il profilo del rinnovamento energetico, per esempio, alla fine del 1962 fu assassinato Enrico Mattei, e pochi mesi dopo fu messo in galera Felice Ippolito. Nel giro di pochi anni questo provocò una valanga che seppellì la parte, a mio avviso, migliore del paese, cioè quella che voleva promuovere la ricerca scientifica, e da allora non è più cambiato quasi niente. Professor Bellone, visto che stiamo parlando di come la scienza è entrata nel nostro mondo, noi siamo solamente degli osservatori passivi o possiamo essere attivi? Cioè, che cosa possiamo fare per cambiare questa visione della scienza verso il pubblico? La prima cosa da fare sarebbe un intervento deciso nel sistema educativo nazionale, non solo nelle università, ma anche nel resto del sistema educativo. Una riforma veramente drastica, che poi tra l'altro basterebbe copiare quello che hanno fatto negli altri paesi, non è che ci sia bisogno di una grande fantasia. Ma l'ostacolo dov'è? L'ostacolo è nella convergenza a livello politico di posizioni che, come ho già detto prima, sono tra loro radicalmente contrapposte su molte tematiche, ma che sul problema della scienza concordano. Quando lo Stato Vaticano dice, scrive, che gli scienziati sono privi di etica, cioè sono degli immorali, avidi di denaro, Dio mio, arroganti, e costituiscono un pericolo per l'umanità. E da una parte di conservatrice si dice la scienza è solo una merce, o produce brevetti o non la finanziamo. E dalla parte opposta, un po' una sinistra salottiera, che continua a dire che gli scienziati sono i servi delle multinazionali, beh, di qui non se ne esce. Cioè, bisognerebbe una riforma interna al mondo della politica, cioè le persone che poi governano, fanno le leggi, in modo da legarsi di più alle esigenze anche industriali. Io ripeto sempre questo tema: senza innovazione tecnologica le nostre industrie non sono in grado di competere con nessun'altra industria in un altro paese. Professor Bellone, noi ci lasciamo con 30 secondi di musica e poi torniamo in studio per le conclusioni finalissime. Dalla fortezza della scienza arriva. Bentornati nella parte finale di Caccia al Fotone. Professor Bellone, nella nostra chat, nella chat di Radio Città Fujiko, entra Jokes31, che ci fa una domanda semplice, semplice ma secca: che cos'è la scienza? La scienza è la tendenza della nostra specie a cercare di capire i fenomeni naturali, e lo può fare se e solo se è libera. libera da preclusioni religiose, politiche, filosofiche. La scienza è una delle più grandi scoperte della nostra specie, e se la ostacoliamo, ma vede, ostacolarla è molto facile in un paese dove nelle nostre scuole non si insegna abbastanza matematica, chimica, fisica, eccetera. Le faccio un esempio molto semplice. Prende il problema degli OGM, definiti il cibo di Frankenstein e cose di questo genere. Uno va in un supermercato e sente dagli altoparlanti: noi non vendiamo organismi prodotti con gli OGM. Ora, a tutti gli italiani piace la pasta, i maccheroni, gli spaghetti. Agli inizi degli anni 70 un gruppo di fisici alla Casaccia di Roma irradiò quasi a caso sementi di grano e produsse un organismo geneticamente modificato chiamato creso, che ancora fino a pochi anni fa costituiva il 50% delle farine alimentari nel nostro paese. Cioè, noi mangiamo OGM da 30 anni. Non è solo che non lo sappiamo, ma anche quando lo si scrive c'è il silenzio di tomba, nessuno dice che non è vero, e ci sono dei rapporti internazionali e nazionali su che cosa mangiano gli italiani, prevalentemente una grande quantità di prodotti geneticamente modificati, ma nessuno ne parla, nessuno ne parla, c'è un grande silenzio. Perché? Bella domanda, perché sono in gioco interessi economici terribili. Avendo detto per anni e anni e anni che gli OGM fanno male, che è una stupidaggine dal punto di vista scientifico, adesso non si ha più il coraggio di tornare indietro, di fare un po' di autocritica. E questo vale per tutto, per la procreazione assistita, per le cellule staminali embrionali. Anche molti di quelli che salutarono la vittoria di Obama negli Stati Uniti, adesso che lui ha aperto alle embrionali, certi entusiasmi si vanno smorzando, guardi un po'. Professor Bellone, la ringrazio per essere intervenuto in diretta, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Calcio Fotone e di Radio Cine Fujiko. L'appuntamento è sabato prossimo alla stessa ora e sulla stessa radio, e come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Bellone. Grazie a lei, buongiorno.